Il banchiere pensò di aver fatto qualcosa per annullare una causa di disagio, ma non si sentiva per nulla più tranquillo. Egli non misurò la quantità di morbosa motivazione che lo aveva indotto a desiderare la simpatia di Lydgate, ma non di meno quella quantità c'era ed era attiva, come una sostanza irritante nel sangue. Un uomo fa un voto, eppure non si priva dei mezzi per rompere il voto. Forse che intende romperlo dichiaratamente? Assolutamente no. Ma i desideri che tendono a infrangerlo sono oscuramente all'opera in lui e si fanno strada fino alla sua fantasia e gli fanno rilassare i muscoli nello stesso momento in cui egli si sta ripetendo i motivi del proprio voto. Che Raffles si ristabilisse rapidamente e tornasse a fare libero uso delle sue odiose capacità, come poteva Balstro augurarsi una cosa simile? L'immagine di Raffles morto era quella che gli arrecava sollievo e indirettamente lui invocava quel sollievo, pregando che se fosse possibile il resto dei suoi giorni da trascorrere qua giù fossero esenti dalla minaccia di un'ignominia che lo avrebbe completamente distrutto come strumento al servizio di Dio. L'opinione di Lydgate non gli prometteva che la sua preghiera sarebbe stata esaudita e col passare delle ore Balstro si sentì irritato dal persistere della vita in quest'uomo, che avrebbe volentieri visto sprofondarne il silenzio della morte. Una volontà imperiosa suscitava degli impulsi assassini verso questa vita vegetale, su cui la volontà da sola non aveva alcun potere. Si disse in cuor suo che stava divenendo troppo esausto. Quella notte non sarebbe restato in piedi a vegliare il paziente, ma l'avrebbe lasciato alle cure di Mrs. Abel, la quale, se necessario, avrebbe potuto chiamare il marito. Alle 6, siccome Raffles aveva avuto solo brevi e agitati periodi di sonno, da cui si destava con rinnovata irritazione e gridava continuamente che si sentiva sprofondare, Balstro cominciò a somministrargli l'oppio secondo le istruzioni di Lydgate. Dopo mezz'ora o più, chiamò Mrs. Sable e le disse che si sentiva incapace di assisterlo oltre, ad essere obbligato ad affidare il paziente a lei, e procedette a ripeterle le istruzioni di Lydgate riguardo alla quantità di ciascuna dose. Mrs. Sable in precedenza non aveva saputo nulla della cura prescritta da Lydgate, si era limitata a preparare e a portare qualsiasi cosa Balstro ordinasse ed aveva fatto ciò che egli le aveva indicato. Ora cominciò a chiedere cos'altro doveva fare oltre a somministrare l'oppio. Nulla per il momento, tranne presentargli il brodino o l'acqua di salsa. Potete venire da me per ulteriori istruzioni. A meno che non sopraggiunga alcun mutamento importante, io non tornerò di nuovo in questa stanza stasera. Chiederete aiuto a vostro marito se necessario. Devo coricarmi presto. Ne avete molto bisogno, signora, ne sono sicura, disse Mrs. Abel. E prendete qualcosa di più corroborante di quanto avete fatto finora. A questo punto Balstro se ne andò, non senza una certa preoccupazione per ciò che Raffles avrebbe potuto dire in preda al delirio, che aveva assunto il carattere di un borbottio incoerente, poco suscettibile di suscitare alcuna convinzione pericolosa. Ad ogni modo doveva correre questo rischio. Dapprima scese nel salotto dai pannelli di legno e cominciò a chiedersi se non dovesse farsi sellare il cavallo e andarsene a casa al chiar di luna, rinunciando a preoccuparsi per le conseguenze terrene. Poi si rammaricò di non aver chiesto a Lydgate di tornare quella sera. Forse avrebbe potuto comunicargli una prognosi diversa e pensare che l'afro stava precipitando in uno stato che dava sempre meno speranze. Avrebbe dovuto mandare a chiamare Lydgate? Se Raffles stava davvero peggiorando e espirava lentamente, Balstro sentiva che sarebbe potuto andare a letto e dormire, grato alla provvidenza. Ma stava peggio? Poteva darsi che Lydgate venisse e dicesse semplicemente che andava come egli si aspettava e che prevedesse che entro breve tempo sarebbe caduto in un sonno tranquillo e si sarebbe ristabilito. A che pro mandarlo a chiamare? Balstro rifuggiva da una simile soluzione. Nessuna idea o opinione poteva impedirgli di intravedere l'unica cosa probabile, che un Raffles ristabilito sarebbe stato esattamente lo stesso uomo di prima, con la sua forza di carnefice rinnovata, obbligandola a trascinare via la moglie per trascorrere gli anni lontano dagli amici della città natale, portandosi in cuore un sospetto alienante contro di lui. Era seduto da un'ora e mezzo, in preda a questo conflitto, illuminato solo dalle fiamme del focolare, allorché un pensiero improvviso lo fece alzare e accendere la bugia che si era portato dietro. Si era ricordato di non aver detto a Mrs. Abel quando doveva smettere di somministrare le dosi di oppio. Afferrò il candeliere, ma restò a lungo immobile. Poteva Poteva darsi che gli avesse già dato più di quanto Lydgate aveva ordinato, ma lo si poteva scusare di aver dimenticato parte di un ordine, prostrato dalla stanchezza com'era. Salì di sopra, candela in mano, senza sapere se entrare subito nella propria stanza e andare a letto o passare dalla stanza del paziente per porre riparo alla propria omissione. Si fermò nel corridoio, con la faccia rivolta verso la stanza di Raffles, e lo sentì gemere e mormorare. Non era addormentato allora. Chi poteva sapere se fosse meglio attenersi o disobbedire agli ordini di Lydgate, dato che Raffles non si era ancora addormentato? Entrò nella propria stanza. Prima che fosse completamente svestito, Mrs. Abel bussò alla porta ed egli aprì di un dito, in modo da poterla udire parlare a bassa voce. «Col vostro permesso, signore, non potrei avere del brandy o qualcos'altro da dare a quel poveretto?» Si sente sprofondare e non vuole mandare giù altro, e in quello c'è ben poco sostentamento se lo prendesse, solo l'oppio, e dice con sempre maggiore insistenza che sta sprofondando nella terra. Con sorpresa della donna, Mr. Balstrow non rispose, era in preda a un conflitto interiore. Io penso che morirà per mancanza di sostentamento se continua così. Quando ho curato il mio povero padrone, Mr. Robinson, ho dovuto dargli continuamente del porto e del brandy e un bicchierone ogni volta. Aggiunse Mrs. Abel con un leggero tono di protesta nella voce. Ma ancora Mr. Balstrow non rispose immediatamente e lei proseguì. Non c'è tempo per fare economie quando uno sta per morire. Né voi lo desiderereste, signore, ne sono certa. Altrimenti gli darei la nostra bottiglia di rum che teniamo in casa, ma in piedi come siete stato e avendo fatto tutto quello che era in vostro potere. A questo punto una chiave venne allungata attraverso la fessura della porta e Mr. Balstrow disse con voce rauca: «Questa è la chiave del secchiello del ghiaccio. Ci troverete brandy in abbondanza». Al mattino di buon'ora, erano circa le 6, Mr. Balstrow si levò e passò un certo tempo immerso nella preghiera. Qualcuno suppone forse che una preghiera intima sia necessariamente sincera, che necessariamente vada alle radici delle azioni. La preghiera intima è un discorso che non si ode e il discorso simboleggia qualcosa, che può rappresentare se stesso esattamente come è anche nelle proprie riflessioni. Balstrow non aveva ancora dipanato nel proprio pensiero i suggerimenti confusi delle ultime 24 ore. Stetti in ascolto nel corridoio e udì un respiro duro e sonoro. Poi uscì in giardino e osservò la prima brina sull'erba e le fresche foglie primaverili. Quando rientrò in casa, sobbalzò alla vista di Mrs. Abel. Come sta il vostro paziente? Addormentato, credo, disse cercando di assumere un tono allegro. È addormentato assai profondamente, signore, disse Mrs. Abel. Ha preso sonno gradualmente tra le 3 e le 4. Per favore, vorreste andare a dargli un'occhiata? Ho pensato di non fare nulla di male a lasciarlo. Il mio uomo è andato nei campi e la bambina sta badando alla cucina. Balstrow salì. Di primo acchito si rese conto che Raffles non dormiva il sonno che porta al ristoro, ma quello che sprofonda sempre di più nell'abisso della morte. Si guardò attorno e scorse una bottiglia con un po' di brandy dentro e la fiala dell'oppio quasi vuota. Celò la fiala e portò la bottiglia di brandy da basso con sé, richiudendola di nuovo a chiave nel cestello del ghiaccio. Mentre stava facendo colazione, dibatté fra sé se dovesse recarsi subito a Middlemarch oppure attendere l'arrivo di Lydgate. Decise di attendere e disse a Mrs. Abel che poteva badare alle proprie faccende. Nella stanza da letto poteva restare lui ad assistere il malato. Mentre era seduto e osservava il nemico della sua pace scivolare irrevocabilmente nel silenzio, si sentì più tranquillo di quanto gli accadesse da molti mesi. La sua coscienza era placata dall'ala avvolgente della segretezza, che in quel momento gli parve un angelo mandato a sollevarlo. Estrasse dalla tasca il proprio taccuino per passare in rassegna vari appunti riguardanti le disposizioni che aveva progettato e in parte realizzato in previsione di lasciare Middlemarch, e rifletté fino a che punto le avrebbe mantenuto cancellate ora che la sua assenza sarebbe stata breve. Alcune economie che giudicava desiderabili potevano ancora trovare un'utile applicazione durante il temporaneo ritiro dalla direzione degli affari e sperava ancora che Mrs. Casaubon avrebbe in larga parte condiviso le spese dell'ospedale. In tal modo i minuti passarono finché un mutamento nel respiro rumoroso fu abbastanza accentuato da trarre completamente la sua attenzione verso il letto ed obbligarlo a pensare alla vita che stava per spegnersi, che un tempo l'aveva servito, che un tempo era stato lieto di trovare abbastanza ignobile per agire come egli desiderava. Era la sua felicità di un tempo che ora lo spinge a rallegrarsi che quella vita volgesse al termine. E chi poteva dire che la morte di Raffles era stata accelerata? Chi sapeva cosa l'avrebbe salvato? Lydgate giunse alle 10:30 in tempo per assistere alla finale. Cessazione del respiro. Quando entrò nella stanza, Balstro notò un'improvvisa espressione sul suo volto che non era tanto di sorpresa quanto di ammissione di non aver fatto una prognosi corretta. Per un po' restò accanto al letto in silenzio, gli occhi rivolti sul morente, ma con quella sommessa mobilità di espressione che rivelava quanto fosse preso da una disputa interiore. Quando è cominciato questo cambiamento? Chiese guardando Balstro. La notte scorsa non l'ho assistito io, disse Balstrow. Ero esausto e l'ho lasciato alle cure di Mrs. Sable. Mi ha detto che si è addormentato profondamente fra le 3 e le 4. Quando sono entrato prima delle 8, si trovava più o meno in questa condizione. Lydgate non chiese altro, ma rimase ad osservare in silenzio finché disse: È tutto finito. Quel mattino Lydgate era in uno stato di rinnovata speranza e libertà. Si era messo al lavoro con tutto il calore di un tempo e si sentiva abbastanza forte da sopportare tutte le carenze della sua vita coniugale. Ed era consapevole del fatto che Balstrow si era comportato da benefattore nei suoi confronti. Ma questo caso lo metteva a disagio. Non si era aspettato che si risolvesse così. Eppure non sapeva proprio come rivolgere a Balstrow una domanda in proposito, senza che questa gli apparisse un insulto. E se avesse interrogato la governante. Insomma, l'uomo era morto. Sembrava inutile supporre che l'ignoranza o l'imprudenza di qualcuno fossero la causa della sua morte, e dopotutto lui stesso poteva ingannarsi. Balstrow ritornò a Middlemarch assieme a lui parlando di molte cose, soprattutto del colera e delle possibilità che la legge di riforma elettorale potesse passare alla Camera dei Lord e della ferma risolutezza dei partiti politici. Di Raffles non si disse una sola parola, tranne che Balstrow accennò alla necessità di fargli fare una tomba nel cimitero di Lowick, che osservò che per quanto ne sapeva il poveretto non aveva parenti tranne Rigg, di cui aveva affermato che gli era ostile. Nel tornare a casa, Lydgate ricevette una visita da parte di Mr. Fairbrother. Il pastore non era stato in città il giorno precedente, ma la notizia che da Lydgate c'era stato un sequestro era giunta quella sera stessa a Lowick, portata da Mr. Spicer, calzolaio e sagrestano, che l'aveva saputo dal fratello, rispettabile riparatore di campane di Lowick Gate. Dalla sera in cui Lydgate era sceso dalla sala da biliardo assieme a Fred Vincey, Mr. Fairbrother aveva pensato a lui con alquanta malinconia. Giocare a Green Dragon uno più volte non avrebbe potuto significare nulla in un altro, ma in Lydgate costituiva un segno fra i tanti che stava cominciando a non essere più lui. Iniziava a fare cose verso le quali in precedenza aveva nutrito un disprezzo addirittura eccessivo. Per quanto certe delusioni matrimoniali, che alcuni stupidi pettegolezzi gli avevano dato a capire, avessero a che fare con questo mutamento, Mr. Fairbrother era dell'opinione che esso fosse da mettere in rapporto principale con i debiti di cui si parlava sempre più apertamente. E cominciò a temere di sbagliarsi riguardo alla possibilità che Lydgate avesse alle spalle delle risorse o degli amici. La ripulsa che aveva avuto al primo tentativo di indurre Lydgate ad aprirsi lo aveva dissuaso dal ritentare. Ma questa notizia che il sequestro stava effettivamente avvenendo nella sta casa indusse il pastore a vincere la propria riluttanza. Lydgate aveva appena congedato un paziente povero al quale era assai interessato e si fece avanti per tendergli la mano con una franca allegria che sorprese Mr. Fairbrother. Che anche questo fosse un orgoglioso rifiuto di solidarietà e di aiuto non importava, la solidarietà e l'aiuto gli sarebbero stati offerti. Come state, Lydgate? Sono venuto a trovarvi perché sono venuto a sapere di voi qualcosa che mi ha impensierito, disse il pastore, col tono di un buon fratello in cui non vi era alcun rimprovero. Erano entrambi seduti e Lydgate rispose subito: Penso di sapere a cosa alludete. Avete saputo che in casa si stava facendo un sequestro? Sì, è vero. Era vero, disse Lydgate con un'aria schietta, come se ora non gli desse alcun fastidio parlare della faccenda. Ma il pericolo è passato. Il debito è pagato. Adesso sono fuori delle difficoltà economiche. Sarò libero dai debiti e potrò spero ricominciare da capo con un tenore di vita più assennato. È un gran sollievo sentirvelo dire, fece il pastore appoggiandosi allo schienale e parlando con quella rapidità sommessa che spesso segue la rimozione di un peso. Questo mi fa più piacere di tutte le notizie del Times. Confesso di essere venuto da voi col cuore oppresso. Vi ringrazio di essere venuto, disse Lydgate con aria cordiale. Posso godere ancora di più della vostra gentilezza perché sono più felice. Certo che sono stato angustiato un bel po'. Temo che troverò le ammaccature ancora dolorose fra poco, aggiunse con un sorriso piuttosto triste, ma in questo momento posso solo sentire che quella assillante tortura non c'è più. Mister Fairbrother restò silenzioso per un momento e poi disse con aria seria: Mio caro amico, permettetemi di farvi una domanda. Perdonatemi se mi prendo una libertà. Non credo che mi chiederete nulla che potrebbe offendermi. Allora, è necessario per mettermi il cuore in pace, non l'avete, vero? Allo scopo di pagare i debiti, contratto un altro debito che può diventare un tormento peggiore in seguito. No, disse Lydgate arrossendo leggermente. Non vi è alcun motivo per cui non debba dirvi, dal momento che i fatti stanno così, che la persona verso la quale sono obbligato è Bulstrode. Mi ha dato un anticipo assai generoso, 1.000 sterline, e può permettersi di aspettare finché potrò risarcirlo. Bene, questa si chiama generosità, disse Mr. Fairbrother, sforzandosi di approvare l'uomo che detestava. I suoi sentimenti delicati fuggirono dal soffermarsi persino mentalmente sul fatto che aveva sempre sollecitato Lydgate ad evitare qualsiasi coinvolgimento personale con Bulstrode. Soggiunse immediatamente: E Bulstrode deve essere naturalmente interessato al vostro benessere, dopo che avete lavorato con lui in un modo che probabilmente ha ridotto le vostre entrate invece di aumentarle. Il pensiero che si è comportato di conseguenza mi rende felice. Lydgate si sentì imbarazzato davanti a queste generose supposizioni e si resero più distinta alla sgradita consapevolezza che si era oscuramente fatta strada in lui solo poche ore prima, che i motivi di quell'improvviso atto di beneficenza di Bulstrode, seguito di pochissimo alla più fredda indifferenza, potessero essere frutto di semplice egoismo. Lasciò perdere le generose supposizioni, non poteva raccontare la storia del prestito, ma questa era più che mai presente al suo pensiero, oltre al fatto a cui il pastore, nella sua delicatezza, non accennò che questo rapporto di obbligazione personale con Bulstrode era ciò che un tempo aveva più decisamente cercato di evitare. Invece di rispondere, cominciò a parlare delle sue progettate economie e di essere giunta a guardare la propria vita da un punto di vista diverso. Aprirò un ambulatorio, disse. Penso davvero di aver fatto uno sforzo nella direzione sbagliata sotto questo aspetto e se Rosamond non dispiacerà, prenderò un apprendista. Queste cose non mi piacciono, ma se uno le mette in pratica con cura, non sono in realtà avvilenti. Tanto per cominciare, ho avuto una severa lezione. Questa renderà sopportabili i piccoli sarcasmi. Povero Lydgate. Quel se a Rosamond non spiacerà, che gli era sfuggito involontariamente come parte dei suoi pensieri, era un segno significativo del gioco che portava. Ma Mr. Fairbrother, le cui speranze seguivano la stessa corrente di quelle di Lydgate e che non sapeva nulla su di lui che ora potesse suscitare un presentimento malinconico, si congedò da lui con affettuose congratulazioni. Capitolo 71. 5 giorni dopo la morte di Raffles, Mr. Bembridge se ne stava a proprio agio sotto l'ampia arcata che portava al cortile del Green Dragon. Non amava la contemplazione solitaria, ma era appena uscito di casa e si poteva star certi che qualsiasi figura umana a suo agio sotto l'arcata nel primo pomeriggio avrebbe attirato altre persone come un piccione che ha trovato qualcosa che vale la pena di piluccare. In questo caso non c'era alcun materiale di cui nutrirsi, ma l'occhio della ragione vedeva la possibilità di un sostentamento mentale sotto forma di pettegolezzi. Mr. Hopkins, il negoziante di tessuti di fronte, uomo dai modi miti, fu il primo ad agire istigato da questa visione interiore, tanto più desideroso di fare 4 chiacchiere fra uomini, in quanto la sua clientela era costituita soprattutto da donne. Mr. Bembridge fu alquanto brusco col negoziante, pensando che Hopkins era naturalmente lieto di parlare con lui, ma che lui non aveva intenzione di sprecare molti dei suoi discorsi con Hopkins. Ben presto, tuttavia, si formò un crocchio di ascoltatori più importanti, costituiti da passanti o da persone che erano espressamente accorse per vedere se stava succedendo qualcosa al Green Dragon. E Mr. Bembridge trovava che valeva la pena raccontare tante cose eccitanti sui begli stalloni che aveva visto e gli acquisti che aveva fatto durante un viaggio al nord, da cui aveva appena fatto ritorno. I signori presenti potevano star sicuri che quando gli avrebbero potuto mostrare qualcosa che superasse una cavalla puro sangue baia di circa 4 anni, che si poteva ammirare a Doncaster se volevano andarla a vedere, Mr. Bembridge avrebbe dato loro la soddisfazione di farsi sparare dietro da qui fino a Hereford. Inoltre, una coppia di cavalli neri che avrebbe addestrato gli richiamò alla mente con vivezza una coppia che aveva venduto a Faulkner nel 19 per 100 guinee e che Faulkner aveva venduto per 160 due mesi più tardi. A chiunque poteva smentire questa affermazione, si offriva il privilegio di chiamare Mr. Bembridge con nomi assai brutti, finché questo esercizio non gli avesse seccato la gola. Quando il conversare era giunto a questo grado di animazione, spuntò Mr. Frank Hawley. Questo non era persona da compromettere la propria dignità oziando al Green Dragon, ma passando per caso per la High Street e notando Bembridge dall'altra parte della strada, fece alcune delle sue lunghe falcate per chiedere al cavallaio se aveva trovato il cavallo da calesse di prim'ordine che si era impegnato a cercargli. Mr. Hawley fu invitato ad aspettare finché non avesse visto un bigio scelto a Bilkley. Se questo non corrispondeva alle sue pretese fino all'ultimo pelo, allora Bembridge non conosceva un cavallo quando lo vedeva, cosa che parve la più grande assurdità concepibile. Mr. Hawley, la schiena rivolta alla strada, stava fissando un'ora per dare un'occhiata al bigio e vederlo alla prova, allorché passò a lenta andatura un uomo a cavallo. «Balstrò!» esclamarono due o tre voci a un tempo in tono sommesso, una delle quali, che era del negoziante di stoffe, premise rispettosamente il mister, ma nell'esclamare questo nome non c'era nessuna più intenzionalità che se avesse detto la diligenza di Riverstone, vedendo questo veicolo apparire in lontananza. Mister Hawley si voltò per rivolgere un'occhiata noncurante alla schiena di Balstrow, ma Bembridge, mentre con gli occhi la seguiva, fece un ghigno sarcastico. «Diavolo, questo mi ricorda», cominciò abbassando un po' la voce, «che a Bilkley ho raccolto qualcos'altro oltre il vostro cavallo, Mister Oakley. Ho raccolto una bella storia su Balstrò. Sapete come è arrivato a far fortuna? A ogni gentiluomo che desideri una curiosa informazione, io posso dargliela gratis. Se tutti avessero quel che si meritano, forse Balstrò avrebbe dovuto dire le sue preghiere a Botany Bay. Cosa volete dire? Fece Mr. Oakley, ficcandosi le mani in tasca e facendosi un po' avanti sotto l'arcata. Se Balstrò si fosse rivelato un mascalzone, Frank Oakley aveva un'anima profetica. Me l'ha raccontata un tipo che era un vecchio compagno di Balstrow. Vi dirò dove l'ho incontrato la prima volta, disse Bembridge, muovendo improvvisamente l'indice. Era all'asta di Larker, ma allora non sapevo niente di lui. Mi è scivolato fra le dita. Era alla ricerca di Balstrow, senza dubbio. Mi dice che può spillare a Balstrow qualsiasi somma, conosce tutti i suoi segreti. Ma Bilkley mi ha spifferato tutto. Beve roba forte. Che io sia dannato se intendeva testimoniare contro il suo complice, ma è quel genere di spaccone che la spacconata porta oltre il limite, fino a vantarsi di uno spavenio al garretto di un cavallo che gli fruttasse soldi. Uno dovrebbe sapere quando fermarsi. Mister Bembridge fece questa osservazione con un'aria di disgusto, soddisfatto nel dire spacconate, dimostrare una fine sensibilità riguardo a fin dove si poteva arrivare. Come si chiama quell'uomo? Dove lo si può trovare? Chiese Mr. Oakley. Quanto a dove lo si può trovare, l'ho lasciato al Saracen's Head, ma si chiama Raffles. Raffles? Esclamò Mr. Hopkins. Ho preparato il suo funerale ieri. È stato seppellito a Lowick. Lo seguiva Mr. Balstrow. Un bel funerale. Questo suscitò una grande sensazione fra gli ascoltatori. Mr. Bembridge scoppiò in un'esclamazione in cui zolfo era la parola più innocua, e Mr. Oakley, aggrottando le ciglia e piegando la testa in avanti, esclamò: «Cosa? Dove è morto quest'uomo?» «A Stone Coor», disse il negoziante di tessuti. «La governante ha detto che era un parente del padrone. Ci è arrivato malato venerdì». «Ma come? È stato mercoledì che ho preso un bicchiere con lui», si intromise Bembridge. «L'ha curato nessun dottore?» «Sì, Mr. Lydgate. Mr. Balstrow è rimasto alzato una notte a vegliarlo. È morto la terza mattina». «Andate avanti, Bembridge», disse Mr. Oakley con insistenza. «Questo tipo cosa ha detto di Balstrow?» Il gruppetto si era già ingrossato, poiché la presenza del segretario comunale rappresentava la garanzia che lì stava accadendo qualcosa che valeva la pena ascoltare. E Mr. Bembridge narrò la sua storia alla presenza di sette persone.